Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Alle 7:21 minuti siamo qui, buongiorno, ben ritrovati. Se siete svegli da poco per la rassegna stampa, eccoci. Vi ricordo che oggi avremo ospite alle 8:15 Giuliano Cazzola, che è un parlamentare del Popolo della Libertà, cercare di capire cosa sta succedendo anche all'interno del confuso partito di Alfano e Berlusconi. Parleremo poi di democrazia e scelta dei parlamentari ancora, perché il PD ha annunciato faremo le primarie anche per i parlamentari, mentre Beppe Grillo ha espulso due dissidenti dal Movimento 5 Stelle. Ci sarà con noi Andrea Scanzi, ci sarà con noi Roberto Speranza, che è uno dei consiglieri politici più vicini a Bersani del Partito Democratico. Questa alle 8:30. Ora andiamo appunto a vedere cosa ci propongono i giornali in edicola. È giovedì 13 dicembre e in titoli intanto: bot ai minimi da marzo, così apre il Sole 24 Ore, dunque apertura finanziaria. Mentre la scelta politica della giornata un po' confusa di dichiarazioni contraddittorie di Berlusconi è sugli altri quotidiani. Corriere della Sera: pronto al passo indietro se c'è Monti. Questo è il titolo di apertura. Repubblica: se c'è Monti non mi candido. La Stampa: Berlusconi, sfide e minacce. Il Giornale: Berlusconi sfida Monti, candidati con noi. Libero: voilà il Berlus Monti. Il Messaggero: se c'è Monti non mi candido. Avvenire: ricomincia il valzer, ma Monti non balla. E il Secolo XIX: Berlusconi, se Monti guida i moderati, lascio. L'Unità si concentra su PDSL, primarie sotto l'albero, mentre la vicenda Grillo Movimento 5 Stelle, l'apertura del Fatto Quotidiano, il Grillo furioso perde voti, ma anche di Pubblico, il grande twittatore, e si ironizza su un Beppe Grillo messo come il grande dittatore, Charlie Chaplin. Il manifesto: stelle cadenti sono le stelle 5 stelle, secondo il manifesto. Allora, voglio partire, a proposito di giornali, da alcune notizie che riguardano qualche giornalista. Intanto Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, è stato sospeso dall'ordine dei giornalisti. Così titola il Corriere a pagina 25: Sallusti sospeso dai giornalisti. L'annuncio l'ha dato lui stesso, ironico: grazie colleghi. E l'ha fatto su Twitter. Ormai su Twitter ci sono tutti, c'è anche il Papa, tra poco vedremo. L'ordine dice: solo un atto dovuto. C'è un articolo, l'articolo 39 della legge, che prevede: ove si è emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato dell'ordine. Dunque, è un'applicazione del codice. Alessandro Sallusti oggi tuona ovviamente dalle colonne del suo giornale, il giornale. Alessandro Sallusti in prima pagina: l'ultimo oltraggio, vogliono impedirmi di fare il giornalista. Scrive Sallusti: l'ordine dei giornalisti di Milano mi ha sospeso dalla professione, non contento, ha aperto pure un procedimento disciplinare con il malcelato intento di radiarmi dalla professione. L'ordine si trincera dietro alla necessità di rispettare atti dovuti. Mi chiedo allora e mi domando a che titolo e con che scopo il presidente nazionale dell'Ordine Jacopino fosse fisicamente al mio fianco pochi giorni fa al Tribunale di Milano durante la prima udienza del processo per la tentata evasione. Sta di fatto che colleghi a me sconosciuti sono riusciti a fare ciò che neppure i magistrati sciagurati hanno avuto il coraggio di osare: impedirmi di scrivere e esercitare la mia professione. Non mi fanno paura, semmai si coprono di ridicolo e trascinano nella vergogna l'intera categoria. Giornalista espulso per un articolo mai scritto. Come diceva Sciascia, scrive ancora Sallusti, al mondo gli uomini si classificano in uomini, mezzi uomini, ominicchi e qua qua qua. Bene, io provo con forza a rimanere nella prima categoria, i colleghi dell'ordine dei giornalisti si distribuiscano pure dove meglio credono, affari loro. Insomma, questo è Alessandro Sallusti, molto duro su questa decisione. A proposito di giornalisti, oggi sul Manifesto c'è in prima pagina una lettera di 20 righe con la quale Valentino Parlato, che è uno dei fondatori del Manifesto di 40 anni fa, lascia in polemica il quotidiano. dopo che lo ha fatto qualche giorno fa anche Rossana Rossanda, altra fondatrice del manifesto. Mi chiamo fuori, mi dispiace, è il titolo della lettera di Valentino Parlato, cara Norma. Norma Rangeli, direttore del manifesto, quello che state facendo sulla nuova cooperativa, sul possibile rilancio del giornale non mi convince affatto. Per tutto questo mi pento di non essermi associato subito alla posizione di Rossana, cioè di separazione. Lo faccio con questa lettera. Dopo più di 40 anni sono fuori da questo manifesto che è stata tanta parte della mia vita. Mi dispiace, un abbraccio. Va bene, abbiamo fatto, concluso l'angolo dell'autocasta. Abbiamo parlato un po' di noi stessi, no? Sallusti e Valentino Parlato oggi sui giornali. Come detto, Sallusti ha annunciato tutto su Twitter e su Twitter ieri è sbarcato, si può dire questa parola che fa inorridire molti, anche molti folli twittatori, il Papa che ha raggiunto più di 1 milione di seguaci, di follower. Oggi a venire anche mette pagina 3, tutto sul Papa, ecco i primi tweet del Papa, chi crede non è mai solo. A un certo punto non è che solo ha twittato, ha anche risposto a una delle interazioni, una domanda che è arrivata, come vivere l'anno della fede. Beh, la risposta del Papa è stata: dialoga con Gesù nella preghiera, ascolta Gesù che ti parla nel Vangelo, incontra Gesù presente in chi ha bisogno. Oggi il migliore articolo a riguardo, anche un po' irriverente per carità, di Mario Giordano, che su Libero racconta anche un po', come ha fatto qualche giorno fa Massimo Gramellini, anche l'irriverenza dell'Italia, degli italiani, dietro l'anonimato di una tastiera siamo tutti buoni e bravi a fare delle ironie, a fare delle provocazioni. Allora Mario Giordano: il Papa sfida gli sberleffi di Twitter. In principio fu il verbo, poi arrivò il tweet. Alle 11:30 di ieri il Papa ha lanciato la secolare tradizione della Chiesa nel mondo dei new media. E d'ora in poi, dopo questo tweet, eccolo lì le risposte, molte interazioni, gli sberleffi degli italiani. D'ora in avanti possiamo chiamarla sua santuità? Oppure il nuovo comandamento qual è? Ama il tuo follower come te stesso? Come ha fatto Maria a rimanere incinta senza che Giuseppe la toccasse? Era forse wireless? Come vivere la fede in Gesù Cristo in un mondo senza speranza? E anche qui, dopo questo tweet del Papa, la gente ha risposto: pagando l'IMU, rinunciando a qualche paramento. Qualcuno ha scherzato: vuoi che te lo dica papale papale? Oppure: zio bianco, me lo devi dire tu. E insomma, gli italiani, si sa, siete un nome, un cognome, tante volte un nickname dietro la tastiera, vi divertite. Qualcuno scrive Mario Giordano in maniera addirittura becera, dico io becera, ha scritto di tutto, bestemmie, risposte volgari. Forse qualche credente sarà urtato da certe frasi e certi toni, scrive Mario Giordano, ma la forza del Papa sta proprio in questo: ha deciso di scendere in mezzo alla vita reale, cioè alla piazza virtuale. Non si sottrae alle prese in giro, agli attacchi, alle domande violente, nemmeno agli insulti, alle barzellette irriverenti. Non si sottrae al mondo e al suo linguaggio anche scurrile. Stupisce, scandalizza, ma no, del resto quelli che circondavano Gesù mica parlavano seguendo le regole dell'Accademia della Crusca Aramaica, né vestivano il doppio petto alla palestinese, erano pescatori, esattori, mezzi malfattori, prostitute, gente semplice, che se avesse usato Twitter probabilmente avrebbe postato domande simili a quelle che giravano ieri tra i follower di Pontifex. Tra cui l'immancabile: perché Noè ha salvato le zanzare e non i liocorni? Ecco, vi lascio con questa domanda, ci ritroviamo dopo la pubblicità del meteo. Eccoci, sono le 7:37 ormai. E allora continuiamo la lettura dei giornali. Con la politica, ieri è stata una giornata in cui l'ex premier Berlusconi ha detto un po' tutto il contrario di tutto. A un certo punto, ironizzando nella presentazione del libro di Bruno Vespa, ha detto, rispondendo alla domanda, vuole la risposta a Bruno Vespa, vuole la risposta della mattina, del pomeriggio o della sera, ironizzando lui stesso sul fatto che ultimamente cambia molto idea. Se c'è Monti mi ritiro, ma non ci sarà, Questo è il titolo che sintetizza la giornata di ieri di dichiarazioni politiche di Silvio Berlusconi sul Sole 24 Ore, pagina 12. Barbara Fiammeri racconta che Silvio Berlusconi si è spesso vantato di farsi concavo o convesso assecondando le necessità del momento. Stavolta però il cavaliere si è superato diventando poliedrico, multiforme. È riuscito a dire in occasione della presentazione del libro di Vespa tutto il contrario di tutto. Ha detto di essere pronto a fare un passo indietro se Monti si presenterà alle elezioni, ma allo stesso tempo ha rivendicato di essere ancora lui il candidato premier, salvo poi aggiungere che però in pole position c'è Angelino Alfano. Ha parlato di alleanza con la Lega, ma ha anche minacciato la rottura nelle giunte con la Lega di Piemonte e Veneto. Del resto, lo dice esplicitamente, il passo indietro o in avanti dipende da come si sviluppano le cose. Dunque, Silvio Berlusconi che è così molto cangiante di umore, tanto che ora tutti sono in attesa di capire le reazioni di Mario Monti. Quest'idea, l'idea che Mario Monti possa essere il federatore, d'altronde Berlusconi ha ricordato di recente, gli ho anche chiesto di fare il ministro dell'economia, quindi è una persona che stimo profondamente. La risposta di Mario Monti è stata un no comment di fatto. È interessante leggere qui su Il Secolo XIX, pagina 3, il prof lo snobba, la retroscena di Giovanni Palombo, è follia pura, non rispondo. Il no comment sull'offensiva dell'uomo di Arcore che viene rispedita al mittente, anzi la decisione di non replicare è anche legata all'intenzione di tenere un low profile, un basso profilo, di far parlare l'Europa per la serie Berlusconi si distrugge da solo. Questa è la linea di Monti secondo Il Secolo XIX. Ancora più interessante però l'articolo che pubblica Avvenire a pagina 7, perché nell'articolo di Gianni Santamaria ci sono invece alcune dichiarazioni che vengono attribuite a Monti sbarcato a Bruxelles. Ed è un Monti che scrive Avvenire e dice: le mie scelte dipendono solo da me. Sentite un po', il suo commento è freddo mentre è in viaggio per Bruxelles, dove oggi parteciperà il Consiglio europeo. La mia decisione, ha detto Monti appena sbarcato nella capitale belga incontrando i rappresentanti politici italiani, la mia decisione non dipende da nessuna offerta altrui. Ma pur ragionando in linea ipotetica, Monti ritiene alquanto bizzarro e oggetto di confusione per il paese e gli osservatori internazionali, oltre che per me stesso, che io possa mettermi alla testa di una coalizione in cui ci sia chi mi ha tolto la fiducia e mi ha offeso personalmente, nonché chi ha fatto opposizione al mio governo definendomi un uomo alla mercé di interessi oscuri. Dunque, questa è la posizione di Monti. Non mi metterò mai alla testa di una coalizione con chi in cui c'è chi mi ha offeso personalmente. Comunque, ha aggiunto Monti, i miei intendimenti li esporrò quando riterrò opportuno, guardando gli interessi generali del paese, non i calcoli elettorali. Lo farò a camere sciolte, il momento più corretto dal punto di vista istituzionale. Poi Monti, c'è anche questa frase che sicuramente può fare discutere, perché Monti ricorda, riguardo l'aggettivo italiano, a ognuno spetta lo spostamento anche impercettibile della connotazione di questo aggettivo. È un modo per far capire con il linguaggio di Mario Monti che italiano in Europa non è sinonimo di qualcosa di molto apprezzato. Tanto che si lascia andare a un amarcord, sempre scrive Avvenire, e ricorda quando nel 1994 il commissario europeo, all'allora presidente della Commissione europea Jacques Santer, chiamò Berlusconi a dire: molto bene quel professor Monti che mi ha mandato, non sembra neanche italiano. Ecco, dunque un Monti che ricorda anche quel giorno in cui a Bruxelles mi dissero: molto bene, lei non sembra neppure italiano. E beh, insomma, porta avanti l'orgoglio del nostro paese. Secondo il Foglio, il casino organizzato oggi, mi veniva in mente, per gli amanti del calcio forse si ricorda Eugenio Fascetti, quello che faceva il casino organizzato. Perché il casino organizzato, la strategia politica del cavaliere, per il Foglio è un qualcosa che in realtà ha un metodo, c'è del metodo nel caos organizzato, ma lo conosce solo lui. E tanto che si rimarca sul Foglio questa autoironia di Berlusconi, che dice a Vespa: quale risposta desidera, quella di stamattina, oggi pomeriggio o questa sera, perché cambiano le cose. Alla domanda Cavaliere si ricandiderà, va in scena il caos organizzato del Cavaliere con, racconta al Foglio, ancora Gianni Letta e Fedele Confalonieri, suoi più stretti amici e consiglieri, che gli hanno consigliato prudenza, non affrettare decisioni che possono essere ancora rimandate. Ed ecco qui la decisione di dire, come io scrivo da 3-4 giorni su Twitter, ma siete sicuri che Berlusconi si candidi davvero? Ecco, ieri qualcosa si è saputo un po' di più. Insomma, in questa confusione del centrodestra, un'altra cosa un po' confusa è la questione dell'Utri, perché dell'Utri 2 giorni fa da Giuseppe Cruciani alla Zanzara ha detto mi ricandido, certo, assolutamente. Ieri Berlusconi ha detto no, non possiamo candidarlo, mi spiace, è un grande amico, ma non possiamo permetterci di avere come immagine Marcello Dell'Utri candidato. Ieri Dell'Utri ha detto dobbiamo chiarire questa cosa. E poi ha svelato il mistero, secondo Mattia Feltri, che ricostruisce un po' tutti sulla stampa, un po' tutto sulla stampa, pagina 3. Il mistero è questo, dice Dell'Utri, in realtà ci dobbiamo vedere, è che nell'ultimo mese non sono riuscito a parlargli e quindi Berlusconi è rimasto a quando un mese fa gli avevo detto che non volevo più candidarmi, ma siccome ho cambiato idea, Dell'Utri dice ecco, gli ho parlato ieri sera poi in serata e è tutto a posto, non vedo perché non debba ricandidarmi. Sarà l'ultima parola anche qui o ci sarà anche qui il balletto della candidatura non candidatura? Chissà. Intanto tuona contro le dichiarazioni di Berlusconi Flavio Tosi, il sindaco di Verona, quando ieri Berlusconi ha detto attenzione, va bene la Lega, ma se la Lega non troviamo l'unità, allora possono cadere anche le giunte, oltre alla Lombardia, di Piemonte e Veneto, rette da 2 leghisti. Tuona Flavio Tosi, è un barzellettiere, intervistato dal Fatto Quotidiano. È il solito barzellettiere Berlusconi, la sua candidatura antistorica, un suicidio politico per lui e per chi lo sostiene. È una barzelletta questa della caduta di Cota e Zaia. Gli eletti del PDL non ci pensano nemmeno a far cadere una regione in cui si lavora benissimo. E quindi sarebbe un suicidio far cadere una giunta, perché lo dice Berlusconi. È un Flavio Tosi che è dunque molto molto critico. In tutto questo silenzio, perché Mario Monti è in silenzio ufficialmente, le dichiarazioni che vi ho letto di Avvenire sono dei retroscene evidentemente di indiscrezioni che lui ha detto quando ha parlato una volta sceso dall'aereo a Bruxelles. In tutto questo c'è il Consiglio europeo. Oggi Monti è lì, l'Unione europea verso l'intesa sulla vigilanza, scrive il Sole 24 Ore, scusate, a pagina 5. Beda Romano racconta di un Consiglio europeo che sarà un Consiglio europeo sottotono, con i 27 capi di Stato e Governo a discutere sulla riforma dell'Unione monetaria, ma l'impressione generale è che le decisioni saranno per lo più deludenti. Quindi si ritrovano, ma Consiglio europeo sottotono. Dall'altra parte invece il centro-sinistra lancia le primarie anche per scegliere i candidati del Parlamento. Dovrebbero, è tutta un'incertezza, il 29 o 30 dicembre, a meno che non si spostino ancora le elezioni che dovrebbero essere al 17 o al 24 febbraio. E Bersani ha detto sì, facciamo le primarie per scegliere i candidati al Parlamento. Da qui ripartiamo tra un attimo. Nel centro-sinistra dunque Bersani lancia le primarie dei candidati e Sel di Vendola gli va dietro dicendo anche noi lo stesso giorno 29-30 faremo questa sfida noi stessi per cambiare. C'è un'interessante intervista a Enrico Letta del Partito Democratico, intervistato da Maria Zegarelli sull'Unità pagina 3, a dire dobbiamo giocare all'attacco fino al giorno delle elezioni. Abbiamo il faro che è lo statuto per quel che riguarda le deroghe, perché tutti adesso si chiedono e che succederà ai big del partito? Ve la vedete Rosy Bindi fare le primarie per la scelta del Parlamento? Enrico Letta dice noi abbiamo un faro, il nostro statuto riguardo alle deroghe. Lunedì la direzione varerà le regole alla luce di quello che prevede la nostra Costituzione, lo statuto appunto. In quella sede si decideranno anche le deroghe in assoluta trasparenza, perché questo è il metodo migliore. Ci saranno le deroghe? Lunedì il match con, credo, in 10 round all'interno del Partito Democratico su questo, anche perché scrive Goffredo De Marchis su Repubblica in un retroscena, pagina 7, Beh, si scatena il panico tra gli onorevoli. Sindaci e consiglieri hanno già i voti, mentre gli onorevoli, perché chiaramente essendo stati nominati la scorsa volta, non sono più abituati a fare politica sul territorio, questa è la verità, non ne hanno più necessità. Ora non hanno più i voti. Se dovessero dirgli in 10 giorni, ok, andate adesso sul vostro territorio di competenza a prendere i voti. E giustamente De Marchis scrive, si scatena il panico. Così non mi piacciono, scuote la testa Ermete Realacci, deputato renziano del PD. Ho 5.000 voti sicuri a Roma, ma non so se basteranno, dice Mario Dinolfi, poco fa ospite anche nel nostro Bar in Onda. Insomma, i nominati tremano e vale per tutte le correnti, Bersaniani, D'Alemiani, Franceschiniani, Veltroniani, Renziani, un terrore trasversale che colpisce anche chi ha curato il suo collegio, ha fatto 1.000 iniziative, ha difeso le cause dei suoi concittadini, ma nel 2008 non ha dovuto raccogliere i voti porta a porta, mentre consiglieri regionali, comunali, provinciali e sindaci, quelli eletti con le preferenze, quelli si sono sudati consensi uno a uno, diventando adesso potenziali e pericolosissimi avversari. Cioè c'è il rischio dunque di un terremoto, perché appunto i parlamentari non sono più abituati ad avere il consenso, a cercarlo. E dall'altra parte noi parleremo anche di questo, delle primarie, parleremo anche di quello che è successo nel Movimento 5 Stelle, insomma, come definire l'uscita di Beppe Grillo, che ha detto, dopo aver tuonato, non rompetemi i coglioni con la democrazia, usciranno quelli che dal movimento, quelli che hanno da ridire che io e Casaleggio, e infatti nel giro di 24 ore è arrivata sia Giovanni Favia, consigliere regionale dell'Emilia Romagna, e sia a Federica Salsi, consigliere comunale di Bologna. Entrambi sono stati i nostri ospiti. Federica Salsi, forse abbiamo anche un po' accelerato con un'intervista la sua esclusione, con una mail è arrivato il diktat di Kim Jong Grill, di Beppe Grillo, a dire i ribelli Salsi e Favia licenziati da Grillo. Però su questo loro combattono, dicono sbagliato. C'è un'intervista invece molto allineata di Davide Bono, consigliere regionale della regione Piemonte del Movimento 5 Stelle, che sulla stampa, intervistato da Giuseppe Salvaggiulo, dice: è assolutamente giusto così, decisione attesa, necessaria, anzi io avrei fatto molto prima. Già quel fuori onda di Favia, che era posticcio e comunque anche lui è uno che rompeva le scatole, un personaggio particolare, brigava, passava le giornate a parlar male, Grillo cattivo, Casaleggio cattivone, gli stava antipatico. Favia ha fatto di tutto per cacciare Casaleggio. La verità è che altro che democrazia, lui voleva candidarsi in Parlamento, altro che ideali, tutte puttanate. E Federica Salsi, beh, di punto in bianco ha mostrato un grande interesse a mettersi in mostra in TV. Ma senta, chiede la stampa, cacciata per un talk show, si rende conto? Contravveniva a una norma non scritta ma accettata, risponde Davide Bono. Io estenderei il divieto di andare nei talk show anche agli eletti e per sempre. Questo, non lo so, è la posizione evidentemente del Movimento 5 Stelle. E poi ancora Bono dice: Grillo ha 40 anni di storia, ha fondato il movimento, lui e Casaleggio non sono segretari di partito, sono i fondatori, se uno decide di occuparsi di organizzazione sbaglia, fuori. Così tuona Davide Bono. Ma questo è un sistema democratico? Ah, siete molto attaccati a questa parola. Ma non è importante? Ormai i media hanno svuotato le parole. La domanda non ha senso. Non so cosa vuol dire democratico oggi. Io scelgo un'altra parola. Metodo sperimentale. Niente segretari, niente responsabilità organizzative degli eletti. Gli iscritti, neanche loro decidono, certo, solo Grillo e Casaleggio, sì, ma non entrano nel merito delle persone e delle liste. Le espulsioni solo quando uno va palesemente contro il movimento. Questo è il Movimento 5 Stelle, secondo Davide Bono, consigliere regionale in Piemonte. Oh, cari pendolari di Trenord, della Lombardia e dintorni, anche oggi mi sa che è un casino, ve lo dico perché l'hanno detto anche cioè c'è questo sistema comprato dalla Spagna, Gol Rail, oggi il Corriere ci ritorna per il terzo giorno a pagina 29, che funziona ovunque benissimo, è un software che funziona ovunque tranne che sui treni della Lombardia. Poi uno dice i Maya che si avvicinano, non lo so. Però funziona benissimo. GoalRail, usato dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dalla Spagna. Il software è stato testato, è stato acquistato alla fine del 2011. I test sono iniziati all'inizio del 2012, dunque da un anno. È entrato in vigore da 3 giorni. Pare, dai racconti dei pendolari e dalle stesse ammissioni di Trenord, insomma, che dicono qualche disguido, in realtà pare che sia un mezzo disastro. Vabbè, consolatevi. Sappiate che il 21 arriva presto, il 21 dicembre. E prendete nota di questi 5 comuni dove arriva la fine del mondo, ma in Italia no. In questi 4, per la verità, comuni, sono i comuni demaiazzati, cioè non c'è la distruzione di tutto. Lo scrive oggi il giornale a pagina 22. Sono Angrogna in Piemonte, Cisternino in Puglia e Pietra Pertosa in Basilicata, ma soprattutto Spinello in Emilia Romagna. A Spinello la fine del mondo non ci sarà. Chissà come mai, il giornale radio.